Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. È in uno dei vicoli di Napoli, in uno dei cortili di Napoli, che chiaramente per me mi ha dimostrato quello che era lo spirito napoletano. Tornai a Roma entusiasta e rimproverai mio marito di avermi negato di godere di una simile bellezza fino ad allora. Tutti gli anni, da quel momento, siamo andati a visitare Napoli. Storie di come si smonta un pregiudizio e di un viaggio iconico in una puntata che si intitola Vedi Napoli. Tutti hanno scritto in Napoli canzoni appassionate, tutte le bellezze in Napoli sono state decantate da Bovio, Tagliaferri, di Giacomo Valente, in prose, virze e musiche, ma chi fa di più niente? Chi tiene più coraggio di qualcosa dopo che sti poeti grossi assai? D'accordo sono che state a dire una cosa, che sto paese non si scorda mai, sta Napoli regina di Sirene, che chiua guardando e chiua vuole bene, viate anche sana sana di indepino, a porta di dopo, che già fa. Napoli si come zucchero, terra adorabile che rarità, zucchero d'amore e femmine, io cuore Napoli che può cantare. Napoli terra d'amore, sente sto cuore che devo dire, zucchero d'amore e femmine, chi è nato a Napoli ci può morire. Sì, è così. Si intitola Vedi Napoli, la puntata di oggi, motivo per cui abbiamo aperto con l'inconfondibile voce e pronuncia di Totò che recita una poesia per Napoli, ma è una puntata particolare perché a Napoli al centro, ma a Napoli al centro vista da due punti di vista diversi. Una è quella, la prima storia, quella della moglie di un napoletano, che però è lontano da Napoli da tantissimi anni e di fatto la impedisce di andare a Napoli, la scoraggia dall'andare a Napoli, le dice lascia stare, io da napoletano so, non è un posto dove andare a fare una vacanza. Lei a un certo punto decide di andarci per i fatti suoi, ne rimane estasiata e da lì in avanti trascinerà anche il marito, che da ex napoletano probabilmente torna ad essere napoletano. E poi invece la seconda storia, visto che si parlava di Napoli, non poteva non citare l'uomo che più di tutti ha parlato della città di Napoli, l'uomo che ha inventato, anche se non tutti lo sanno, la frase vedi Napoli e poi muori. Sto parlando di Johann Wolfgang Goethe, che alla fine del 1700 fece questo lunghissimo viaggio in Italia, no? Era l'epoca dei Grand Tour, per cui le persone che potevano permetterselo prendevano una carrozza, poi i cavalli e poi i mezzi dell'epoca. E si facevano questi viaggi meravigliosi nel nostro paese, viaggi che duravano anche 2-3 anni. Dura un paio d'anni il viaggio di Goethe e a un certo punto arriva a Napoli. E quello che dice di Napoli è straordinario. La descrive come una città addirittura al paragone del quale Roma sembra, lui dice, una vecchia biblioteca, insomma un pezzo da museo. Il mare, l'aria. E c'è tra l'altro un pezzo fantastico, e ve lo citeremo in questo piccolo racconto di Goethe su Napoli, di come descrive questa sorta di lavorio da parte di persone addette all'immondizia che portano, appena viene buttata via, portano fuori dalla città questa immondizia, che per lo più sono rifiuti organici e servono per coltivare gli orti fuori da Napoli. Insomma, è un'immagine, un racconto bellissimo di Napoli, sono storie che hanno a che fare con quella linea d'ombra che probabilmente è soprattutto nella nostra testa rispetto a certi luoghi della nostra vita o certi luoghi in cui non siamo mai stati, certi luoghi che vengono raccontati in un certo modo. Ebbene, al di qua o al di là di quella linea esiste tutta la differenza del mondo. Vedi Napoli, benvenuti a Linee d'Ombra. Da Napoli ci si passava veloci quando d'estate si andavano a trovare i nonni in Calabria e ancora non era stata costruita l'autostrada del sole. Mia madre era stata costretta a fare le medie lì, avendo nel suo paesino, agli inizi del Novecento, scuole solo fino alla terza elementare, e lo ricordava come un periodo di oppressione. Anni dopo, di Napoli era mio marito, ma un napoletano sui generis, Il padre ingegnere, subito dopo la guerra, aveva preso moglie, madre e due figli e li aveva portati a Roma perché non voleva che il mio futuro marito e la sorella crescessero lì. E mio marito, a Napoli, dopo poche visite, quando era bambino per andare a trovare la nonna, non c'era più tornato e soprattutto non ci voleva più tornare. Io e mio marito, con al seguito le figlie, quando arrivarono, ogni settimana visitavamo un borgo, un pezzo di città, un territorio in giro per l'Italia. Io e lui amiamo moltissimo i luoghi d'arte, meno le località cosiddette di vacanza. Andavamo dappertutto, tranne che a Napoli. Napoli, miseria, camorra, malcostume. Mi diceva, leggi La Capria, e io leggevo. Intanto ero diventata insegnante delle superiori, mi ero iscritta al CIDI che svolgeva giornate di aggiornamento per noi insegnanti in tutta Italia. E intanto a Napoli era stato eletto il sindaco Antonio Bassolino. Nella primavera del 95 il CIDI organizza un convegno di 3 giorni a Napoli, generalmente erano dal venerdì alla sera di domenica, con un giorno di permesso a scuola. Decido di andarci, è interessantissimo il tema e oltre a ciò, i nostri accompagnatori per la città, nonché moderatori nei tavoli di discussione, saranno i docenti della facoltà di fisica. E quindi mi domando, perché perderlo? Era un modo per aggiornarsi, diciamo, come insegnanti. Il convegno era venerdì, sabato e domenica. Loro facevano sempre questi convegni, perché poi il sabato molte di noi eravamo libere, no? E si tornava il domenica, ognuno alla città di provenienza, perché chiaramente venivamo da tutta Italia. Erano sempre convegni nazionali, diciamo. Le raccomandazioni di mio marito sono al limite del ridicolo. Un giorno, stanca delle sue catastrofiche previsioni, lo metto a tacere e gli dico: senti, se sono stata capace di vivere 40 anni a Roma senza grossi problemi, posso andare dappertutto, credo. Parto tra i suoi mugugni, rassicurandolo che avrei telefonato mattina e sera. Vado in treno la sera prima. Mio marito mi ha fatto prenotare un albergo di prima categoria in una zona che lui riteneva sicura. Dalla stazione, prima di prendere un taxi, esco sul piazzale e mi fermo a guardare. È tutto tranquillo. La mattina decido di andare a piedi alla sede del convegno. Signora la borsetta, mi sento dire. Mi volto di scatto, pronta a difendere con tutte le mie forze la borsa, quando uno dei due giovani vigili dietro di me continua: è meglio che la tenga davanti piuttosto che sulle spalle. Sorrido, seguo il consiglio e continuo. Ecco, da quel momento io ho amato Napoli. Mattina e pomeriggio interventi e discussioni al convegno e poi ora di pranzo e dal pomeriggio tardi alla sera in giro per la città per conoscerla. E come guide c'erano loro, fisici con la passione per l'arte, la musica e per la loro città. Visitarla e scoprire che Napoli era stata la capitale europea nel Settecento e che ancora, nonostante i danni della guerra e il degrado, il suo passato ruolo era presente, mi fece passare dall'amore alla passione totale. I suoi musei, le sue chiese, i suoi palazzi, i suoi abitanti. Non mangiavamo né a pranzo né a cena, per non perdere tempo. Sempre attenti noi docenti di tutta Italia a guardare il programma della giornata che i fisici ci avevano composto. Io penso che in quel periodo, con la nuova amministrazione della città, Napoli volesse e potesse risorgere e ogni napoletano si sentisse chiamato a quel compito. Stai sempre campuntata, cammizza sta via. Non mangi più, non dormi più, che poco andria. Quei piccoli che verrà di sta gelosia. Tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi do fa fa. Corre in braccio a tua mamma, non fa scema piccoli. Dille tutta la verità, che mamma te può capire. E passa e spassa sotto a sto balcone, ma tu sei guaglione. Tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che ti mise in capo, vaglio con pallone. Che fanno di sti lacrime, batti non mi fa ridere. Corre in braccio a tua mamma, non fa scema piccoli. Dille tutta la verità, che mamma te può capire. Tra i tanti accadimenti, 3 mi sono rimasti particolarmente impressi. Il primo giorno, per le 2 ore di intervallo del pranzo, avevo deciso di scegliere la visita ai quartieri spagnoli. I gruppi che si formavano erano sempre circa di una 30 di persone. Ci aggiravamo tra i bassi, le case, i palazzi, non perdendo nemmeno una parola delle descrizioni accuratissime della nostra infervorata guida, quando, seguendolo all'interno di un cortile, ci sentimmo apostrofare Chi siete? Il nostro vociare si attenuò e alzammo gli occhi. Da un balcone di un secondo piano, una signora di mezza età, poggiata alla ringhiera di ferro, ci aveva fatto quella domanda e aspettava risposta. Non so chi cominciò a parlare, ma le spiegammo brevemente che eravamo professori venuti un po' da tutta Italia per un convegno e per vedere Napoli. Ah, fu la risposta. Trasite, venite su, vi offro un caffè. A 30 persone domandammo. Ringraziammo, rifiutammo con la scusa della fretta, ma si vedeva che la signora era rimasta dispiaciuta. E noi con lei. Una sera invece ci portarono a sentire un concerto in una chiesa, ma era una chiesa particolare di cui non ricordo il nome, un edificio progettato come se fosse uno spartito. E il terzo avvenimento che mi è rimasto particolarmente impresso fu quando andammo a visitare il palazzo di un nobile napoletano. Un suo antenato, ci raccontò, aveva avuto il figlio giustiziato nelle catombe che dalla fine del 1799 al settembre del 1800 distrusse, con il rientro dei Borboni, dopo la sconfitta della Repubblica, i migliori uomini della classe nobiliare e borghese della città, facendo arretrare la cultura di Napoli di secoli e non permettendo più, fino ad allora, gli splendori di quell'epoca. La feroce repressione era avvenuta sostenuta dagli inglesi, il cui ammiraglio Orazio Nelson veleggiava lungo le coste a tradimento perché era stato firmato un accordo con i rivoltosi che non si arrendevano. Il palazzo aveva due ingressi, uno padronale che guardava al mare e quello di servizio verso i vicoli della città. L'antenato chiuse il portone verso il mare, giurando ai Borboni e facendo giurare ai suoi figli e loro, ai loro discendenti, che non avrebbero mai riaperto quel portone finché a Napoli non fosse tornata la democrazia. Il nobile napoletano ci fece uscire dal portone verso il mare, dicendoci sorridendo: l'ho riaperto quando è stato eletto Bassolino. Avevamo poco tempo per parlare fra di noi, perché calcola che mattina e pomeriggio stavamo a sentire i relatori che ci spiegavano le cose. Però, diciamo, la meraviglia sulle cose che loro ci dicevano era generale. In me c'era in più questa cosa che io avevo sempre immaginato Napoli, quelle poche volte che c'ero andata da bambina, quando ero più grande ovviamente, come una città molto sporca, invivibile, da cui bisognasse scappare, in cui se uno camminava o si muoveva doveva aver paura, e quindi scoprirla invece una città normalissima, diciamo, molto bella per quello che riguardava i suoi monumenti, perché è bellissima. Si capiva che era una città che era stata una capitale, una grossa capitale, insomma, ecco. E forse la parte settecentesca era addirittura più bella di quella di Roma, insomma. Tornai a Roma entusiasta e rimproverai mio marito di avermi negato di godere di una simile bellezza fino ad allora. Tutti gli anni, da quel momento, siamo andati a visitare Napoli e i suoi dintorni, di cui una volta sempre prima di Natale, per comprare i pastori a San Gregorio Armeno, ma anche semplicemente prendendo un treno, andando in pizzeria, passando di fronte alla stazione a prendere le sfogliatelle e poi riprendere il treno per tornare a Roma. Napoli è mille colore, Napoli è mille paure. Napoli è la voce della creatura che sale chiaro chiaro, e tu sai che non si sola. Napoli è non solo amare, Napoli è dove mare, Napoli è la carta sporca e nessuno sa. Ogni angolo d'Italia ha uno stereotipo che lo segue, più o meno tutti quanti lo sappiamo, soprattutto quando si sta molto vicini, no? Io vengo da un paese che si chiama Romentino, accanto a altri due paesi, e per i romentinesi i trecatesi o i gagliatesi hanno quelli sono fatti in quel modo, quegli altri sono fatti in quell'altro modo, ma lo sappiamo, no? Siamo la nazione dei campanili, siamo il paese in cui spesso e volentieri ci facciamo dei giudizi prima di verificarli, quindi pregiudizi, e quindi ogni angolo di questo paese, vi dicevo, è accompagnato da un'idea. un'idea. Napoli è uno di questi. Napoli soprattutto perché è una città straordinaria, con una storia enorme, si porta dietro anche una forma di pregiudizio. È bizzarro, ma forse neanche troppo, che in questo caso fosse il marito di Maria Letizia, che è napoletano, ad averne tantissimi. Pronto, ciao Maria Letizia, buongiorno. Ciao, buongiorno. Com'è anche che tuo marito ce l'aveva così tanto con Napoli? Ma io penso che gli derivava dal padre, cioè il padre era napoletano, aveva completamente la famiglia napoletana e aveva sposato una signora napoletana ed evidentemente per qualche suo motivo, non so se durante la guerra, per i bombardamenti o per altri motivi, non amava Napoli, non amava Napoli e non amava i parenti di Napoli. Era una persona molto forse chiusa e quindi l'espansività dei napoletani forse le dava fastidio. Quindi a un certo punto prese, lui era un ingegnere delle ferrovie, prese la moglie e i due bambini che erano nati allora, tra cui mio marito, e se ne andò, si chiese il trasferimento chiaramente a Roma e venne a Roma e diciamo trasmise questo suo non amore, diciamo così, per la città ai figli e alla famiglia, diciamo, sì, ecco. Poi alla e soprattutto fine... a mio marito, che aveva lo stesso carattere suo, quindi era una persona chiusa e quindi magari erano costretti loro ogni tanto ad andare a Napoli perché erano rimasti i nonni, diciamo così, però non aveva vissuto questa esperienza in modo positivo, in modo sereno, ecco. E comunque questa è la conferma di come sotto dei giudizi e dei pregiudizi ci siano sempre delle questioni personali, quasi sempre delle questioni personali dovute a qualcosa che è andato storto, che poi viene allargato a una società, a un luogo, a una regione, a un paese. Senti, ma la signora dei caffè, quella signora che vuole offrirvi il caffè, veramente verrebbe fatto salire in 30 a casa sua? Io credo proprio di sì, cioè dal modo come ce lo disse, come ci offrì questa cosa, credo proprio di sì, cioè nel senso che lei in quel momento si era sentita, come si può dire, la padrona di casa di Napoli. Certo, e per cui noi eravamo teneva... degli ospiti e quindi ci teneva a dimostrare tutta la sua, come si può dire, ospitalità, ecco. Certo. Qual è il tuo pezzo preferito della città, Maria Letizia? Non per forza geografico, è anche, che so io, di spirito, di sapori. Beh, di spirito e di sapori è sicuramente la zona dove sta Ciro Altria Nonna, dove sta la pizzeria. Mm-hmm. Ecco, quella è sicuramente quella strada un po' in salita. Io sono, diciamo, una persona a cui piace molto mangiare, no? Quindi chiaramente sono collegata a questi luoghi. E però vabbè, poi Napoli è tutta bella, diciamo, senza distinzione. Io ricordo la prima volta che arrivai a Napoli, ci arrivai per fare un lavoro, facevo l'attore, lavoravo in un teatro che stava proprio nei quartieri spagnoli, che si chiama Nuovo Teatro Nuovo di Napoli, e quando arrivammo c'era questo signore che faceva il custode, che si chiama Mario Febbraio, e ci disse: ragazzi, se qualcuno vi chiede qualcosa, voi dite che appartenete a Mario Febbraio, e quello ci risolse qualsiasi questione possibile da lì in avanti. Ma ovviamente non accadde nulla, se non che passammo anche noi diversi periodi molto lunghi a Napoli, e quindi ho amato moltissimo la tua storia, perché forse ho amato Napoli nel modo in cui l'hai fatto tu. Maria Letizia, ti ringrazio molto per la chiacchiera e la storia, in bocca al lupo per tutto, a presto. Ciao, ciao. grazie ciao, mille, ciao ciao ciao, ciao. A Cirma, se non lo sai, so sempre da velena parla, fosse per me. Pure in montagna te facesse portare. Come chi se lo fa? Sulla pia, senta a me, senza te, pozzo sulla funna, si una sole rosa, si mi viene a pia, sto tutta piazza e perciò non è per niente buona, non è per niente buona, non è per niente buona. A Cirma stiva con me che la sera, vivi e mia, stiva lontana e te guardava, camminava e non parlava, diceva e non diceva, e parlava e non capiva. Continuiamo a raccontare, ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a Napoli, addirittura con Goethe. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Linee d'ombra. Come dicevo in apertura, non tutti sanno che la frase "vedi Napoli e poi muori", come dire "non puoi morire senza aver visto quella città", è una frase di Johann Wolfgang Goethe, che all'interno del suo viaggio in Italia, il libro che raccontava il suo Grand Tour, che tanto andava di moda all'epoca per le strade, i colli, le spiagge, i monti della penisola, a un certo punto passava da Napoli e scriveva così: "Finalmente siamo arrivati qui felicemente e con buoni pronostici. Partimmo all'alba da Sant'Agata. Soffiava alle nostre spalle un vento freddo fra tramontana e ponente, il quale durò tutta quanta la giornata e prima di mezzodì aveva sgombrato il cielo dalle nubi, però soffrimmo comunque il freddo. Finalmente entrammo nella pianura di Capua e più tardi in Capua stessa, dove sostammo verso il mezzodì. Nel pomeriggio attraversammo una bella pianura, la strada correva fra campi di grani di un verde stupendo e le piante di quello raggiungevano l'altezza di un palmo. Traversando una contrada di terreno fertile, leggero, diligentemente coltivato, dove i tralci delle viti, rigogliosi quanto mai si possa dire, si stengono da una pianta di pioppo all'altra, formando quasi una specie di rete, siamo arrivati, finalmente, a Napoli." Ecco, risale al 24 febbraio 1787 questo brano, in cui Goethe racconta del suo viaggio in Italia, ma soprattutto del suo arrivo a Napoli. E vi consiglio di fare molta attenzione a un passaggio della storia in cui racconta quella che oggi verrebbe definita la raccolta differenziata, la precisione e la puntualità con cui dei carretti portano i cibi non mangiati dai ristoranti o dalle cucine fuori dalla città, perché quel cibo, quello che oggi verrebbe chiamato rifiuto organico, è una sorta di paradiso per tutti quelli che hanno gli orti fuori dalla città. E quindi c'è il racconto incredibile di come la città sia pulita grazie a questa antichissima raccolta differenziata. È in questa puntata, che si intitola "Vedi Napoli", la seconda storia di oggi è tratta proprio dal viaggio in Italia di Goethe. State con noi. Il Vesuvio sorgeva di continuo alla nostra sinistra, sprigionando vortici di fumo, e io me ne stavo silenzioso, assaporando la soddisfazione di poter contemplare pure questo fenomeno meraviglioso. Il cielo era sempre limpido. Finalmente il sole spuntò alla nostra dritta e venne a inondare di luce la nostra ristretta abitazione temporaria e mobile, la carrozza. L'atmosfera diventava più pura. A misura ci venivamo avvicinando a Napoli e finalmente ci trovammo in una contrada propriamente nuova. Le case, con i tetti piani a foggia di terrazzo, accennavano a un cielo diverso. Tutti stanno sulla strada a godere il sole finché questo splende. I napoletani ritengono possedere il paradiso e hanno una tristissima idea delle contrade settentrionali. Il primo aspetto di Napoli è lieto, animato, vivace, la folla inonda le strade, si agita in quelle. Oggi poi io mi sentivo bene e ho impiegata tutta quanta la giornata a visitare queste magnificenze. Si dica, si narri, si dipinga tutto quanto si vorrà, qui si troverà sempre di più. La spiaggia, il golfo, il porto, il Vesuvio, la città, i sobborghi, i castelli, le passeggiate. Siamo stati pure verso sera alla grotta di Posillipo, nel momento appunto in cui all'estremità opposta tramontava il sole. Sono indulgente per coloro i quali delirano per Napoli e ricordai con commozione il mio povero padre, il quale aveva serbata una memoria incancellabile di tutto quanto specialmente io vidi oggi per la prima volta. Cioè, sole, cioè, a Napoli c'è sto sole. Penso che stanno tutti quanti, no? Mica stanno solo normali, piccirilla, così. Stanno piazze solo così a Napoli. No, ma sempre, cioè, mica a Napoli non piove mai. Non piove mai? Mai, non piove, sempre sto piazze solo, mica è bello sempre. No, perché tra l'altro io tengo l'impermeabile a casa. Cioè, nuovo. Cioè, mai miso, tengo ancora in dacello fanno chiuso. Ma la soddisfazione mi mettere una volta, no, ma no, io vado a trovare i parenti, per esempio a Firenze, a Milano, e mi metto, perché mi sta buono che la moderna che scende a Napoli, niente, lo tengo là e non mi posso mettere mai. Dopo siamo andati sulla sponda del mare e ho visto trarre fuori da quello pesci di ogni specie e delle forme le più strane, le più curiose. Mi sarebbe difficile rendere conto di questa giornata. Una gita per mare a Pozzuoli, un breve tratto di strada per terra, passeggiate piacevoli nella contrada più amena del mondo. acque bollenti, grotte le quali sprigionano vapori zolforosi, monti calcari decomposti, selvaggi, ostili alla vita delle piante e ad onta di ciò vegetazione rigogliosa, quanto si possa vedere dovunque. La vita che trionfa sulla morte, stagni, ruscelli e per ultimo una foresta stupenda di querce sulla pendice di un antico vulcano. Vorrei sapere perché si muove dita, facita sempre a faccia amareggiata, ma voi quanto è più brutta vi facite, più bella all'occhio mio vi presentate. Io mo non saccia si venà accorgita, ma questi modo è brigge da tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma è tante che ha già avuta e tante che ha già girata, con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivà. Più tempo passa, più va raffreddata, me ce vi riscalda caffè squisita, o bella e casi pura vegelata, si ta delizia do caffè granita, facendo concorrenza limonata. Ma questi modo è brigida, tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma è tante che ha già avuta e tante che ha già girà, con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivà. Moltissimi sono coloro, parte di mezza età, parte ancora ragazzi e per lo più vestiti poveramente, che trovano lavoro trasportando le immondizie fuori città, a dorso d'asino. Tutta la campagna che circonda Napoli è un solo giardino d'ortaggi ed è un godimento vedere le quantità incredibili di legumi che affluiscono nei giorni di mercato e come gli uomini si diano da fare a riportare subito nei campi l'eccedenza respinta dai cuochi, accelerando in tal modo il circolo produttivo. Lo spettacoloso consumo di verdura fa sì che gran parte dei rifiuti cittadini consista di torsoli e foglie di cavolfiori, broccoli, carciofi, verze, insalate e aglio, e sono rifiuti straordinariamente ricercati. I due grossi canestri flessibili che gli asini portano appesi al dorso vengono non solo inzeppati fino all'orlo, ma su ciascuno d'essi viene eretto con perizia un cumulo imponente. Nessun orto può fare a meno dell'asino. Per tutto il giorno, un servo, un garzone, a volte il padrone stesso vanno e vengono senza tregua dalla città, che ad ogni ora costituisce una miniera preziosa. E con quanta cura raccattano lo sterco di cavalli e di muli. A malincuore abbandonano le strade quando si fa buio e i ricchi che a mezzanotte escono dall'opera certo non pensano che già prima dello spuntar dell'alba qualcuno si metterà a inseguire diligentemente le tracce dei loro cavalli. A quanto m'hanno assicurato, se due o tre di questi uomini, di comune accordo, comprano un asino e affittano da un medio possidente un palmo di terra in cui piantar cavoli, in breve tempo, lavorando sodo, in questo clima propizio, dove la vegetazione cresce inarrestabile, riescono a sviluppare considerevolmente la loro attività. Il pensiero ricorre qui, ora alla natura, ora alla storia, dei popoli scomparsi. Si vorrebbe riflettere, meditare, ma non ci si riesce. Intanto sorride intorno a noi la vita, della quale pure non si può fare a meno. Ci stanno attorno persone colte, le quali conoscono il mondo, la sua essenza, ma per squisitezza di tatto sanno astenersi dall'abbandonarsi a considerazioni troppo serie. Sempre, noi a Napoli solo pizza e spaghetti mangiamo. No, è vietato proprio a mangiare di cosa a Napoli, si può mangiare solo la pizza o spaghetti. Infatti il mio fegato noi che è rovinato. No, perché sempre su pizza e spaghetti non si può mangiare niente, è vietato proprio. Infatti una volta tornai a casa, no? Tornai a casa mia all'improvviso, così. Bussai la porta e sentì tutto un rumore, i piatti, cose che... E poi sono detto a mio padre, dice, chi è? No, dice, sono Massimo. Mio padre ha rapetto, dice, meno male che sei tu, tra, stiamo mangiando i gnocchi. Sono salito in cima al Vesuvio, tutto che il tempo fosse cupo, e la vetta del monte coperta di nuvole. Salì il monte fra le vigne, a cavallo di un mulo, quindi proseguì a piedi sulla lava. La lava è già ricoperta di vegetazione. Poi ripresi a camminare, lasciando alla mia sinistra la casupola dell'eremita. Di là convenne salire per le ceneri e fu dura impresa. Il monte era ricoperto per un terzo dalle nuvole. Finalmente arrivammo all'antico cratere ora riempito. Trovammo lava recente di 2 mesi, di 15 giorni, di quella pure recentissima di 5 giorni fa che è già raffreddata. Varcata quella arrivammo ad una sommità vulcanica dove il fumo usciva da ogni parte. Oggi il cielo è coperto e soffia lo scirocco, tempo favorevole per il giorno di posta. Del resto, anche oggi ho visto in buon numero uomini di ogni condizione e bei cavalli e pesci di forme strane. Non si potrebbe fare colpa ai napoletani se nessuno di essi vuole allontanarsi dalla propria città, né ai suoi poeti se parlano in modo iperbolico della felicità che qui si gode, quando anche sorgessero in vicinanza non uno ma due Vesuvi. Nessuno qui può ricordare Roma. A fronte di questa stupenda posizione, la capitale del mondo fa la figura di un antico monastero, il quale sorga in una località infelice. Non aggiungerò parole intorno alla posizione della città, alle sue magnificenze, le quali furono descritte e lodate tante volte. Vedi Napoli e poi muori. Scendimmo a Mergelli, non ne parla mai più, e cingerà mattina, it's me and you. La rosa cinta spin, sei misa senza te, la botta in tuo cuore, tu ti scordate di me. E gira a Mergelli, la porta dove tu, un mezzo pacchettina, it's me and you. La rosa cinta spin, si stonga senza te, la pioggia in tuo cuore, tu ti scordate di me. Eh sì, è proprio lui, è proprio Goethe che scrisse questa frase che tutti quanti pronunciamo quando pensiamo a Napoli, ed è incredibile leggere il favore, l'energia per questa città, l'amore che Goethe prova per questa città, ed è meraviglioso il racconto di Napoli e di questa forma di raccolta differenziata dei rifiuti che fa portare fuori dalla città i rifiuti organici, oggi li chiameremmo, che sono preziosissimi per gli orti. Insomma, è una lettura, quella del viaggio in Italia, che davvero andrebbe fatta ogni tanto per raccontare com'era questo paese quando Goethe ci passò nel 1787. Ci rimase un paio d'anni Goethe in Italia, entrò da Bolzano, arrivò fino in Sicilia passando appunto per Napoli, e questo è esattamente quel pezzo di racconto. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui con Antonio Cocco. Sei a casa tua e ti stai annoiando? No, in realtà no. Sei disperato? No, non sono disperato. Sei solo? Non sono solo, c'è mia compagna. È evidente, sei proprio solo. Ma ci pensiamo noi. Ma chi? Entra nella redazione allargata di Off Topic. Ma per fare cosa? Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti. Cioè, come faccio? Vieni su Telegram, sì? E cerca Off Topic _ 24. E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito? Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch, Off Topic 24. Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina. E faccia un sorriso! Si diverta! Ma no, ma neanche... Che la vita già dura poco! Ma no! Come? Chef, in frigo è rimasto un cavolfiore, un uovo e un limone. Sono disperato. E che problema c'è? Possiamo fare una vellutata di cavolfiore, uova arancioni, profumo di limone. Aspetta, raffa, aspetta, no. Aspetta, ci sono anche. Ho trovato il pecorino. Cioè, pecorino e poi, vabbè, le fave e il riso. Che facciamo? Come li assembliamo? Qui potremmo fare una crema di fave, salsa di pecorino con un goccio di latte e riso mantecato. Ma quante ne sai, Oldani? Ma li conosci tutti questi ingredienti? Tutti, tutti. Eh sì, e anche gli ascoltatori li conosceranno, e anche quanto costano, perché è molto importante il costo. È molto importante, il portafoglio conta, però ti prego non risparmiamo sulle porzioni, che poi viene tristezza. Porzioni abbondanti. Il giusto, Pier, il giusto. Mangia come parli, il cooking show radiofonico di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 11 e la domenica alle 20 su Radio 24. Linee d'ombra. Sono davvero struggenti questi ultimi episodi che vi stiamo raccontando di Antonio Cocco. Sono struggenti perché, conoscendo, ahimè, come andrà a finire la sua storia, leggere la speranza, leggere proprio nelle sue parole, nel tono di voce, nella scelta dei vocaboli, una speranza bruciante di poter tornare a casa, di poter rimediare a quell'errore banale che ha fatto scappando da Venezia quando non aveva nemmeno 18 anni e finendo in Francia e poi infilandosi in quel cul-de-sac che è la legione straniera, perlomeno lo è per lui, non per tutti, non è un giudizio di valore il mio, è un giudizio di fatto rispetto alla vita di Antonio, ai suoi racconti e alle sue lettere. Ebbene, in questi episodi si percepisce proprio chiaramente il momento che più o meno ognuno di noi vive quando si trova al confine delle cose e non sa ancora se finirà di qua o di là, in cui dice andrà tutto bene, ce la farò, ce la faremo, al punto che lui stesso rincuora le persone care a casa, rincuora la madre. Lo vedremo proprio in questa lettera che Antonio scrive alla mamma, in cui le dice: mamma, tra pochissimo ci riabbracceremo. Cara mamma, ho ricevuto la tua lettera arrivata qui il 15. Credo saprai ormai che il primo passo verso casa l'ho fatto. I chilometri sono pochi, ma il passo è grande. Certamente le tue lunghe preghiere e la tua fede hanno fatto molto per ridarmi la mia fede che credevo di avere persa per sempre. Sì, mamma, forse fra poco ti potrò riabbracciare proprio come il figlio al prodigo. Sarà un giorno che non potrò mai dimenticare. Prego abbastanza anch'io ogni sera ed ogni mattina, e le mie preghiere sono brevi ma piene di fervore. Pregherò anche per tua sorella, perché sono convinto che da lassù ci aiuterà tutti, povera zia. Credo sia inutile che ti scriva papà la lettera che tu desideri, perché ora che la mandi alle autorità sarà già deciso tutto. Oggi stesso scriverò al console d'Algeri. Ciccio ha avuto 4 materie a scuola, poveraccio, sono un po' troppe, ma ce la farà. È troppo caparbio per non riuscirci. Certe volte avrei bisogno della sua volontà. Penso spesso a lui, sai? È il fratello a cui voglio più bene, e sapessi quanto mi addolora che non abbia ricevuto le mie lettere. L'ultima però spero l'avrà ricevuta. Forza, Ciccio, ce la farai, ne sono certo. Anche Checco ne ha abbastanza. Mariella e Carmela invece se la sono cavata benone. Quella gatta di Carmela risolve sempre in extremis. Il credo di aver fatto il liceo classico e poi si era iscritto a ingegneria ed era anche bravo a scuola, da quello che io mi ricordo. Lui non studiava molto, era un po' l'esempio in famiglia, Ciccio, l'esempio del bravo figlio. Francesco è l'altro fratello che ha fatto l'architetto, è morto 2 anni fa. Ma quello è passato da un collegio all'altro. Non è mai stato un allievo brillante, mi risulta, Cesco, una cosa media così, però sempre ficcato in collegio. La Carmela era quella, era come la più immediata, la più, detto così, Mariella mi ricordo più razionale, anche se lei è abbastanza immediata così. Ieri sera abbiamo portato un tedesco nella camera mortuaria, si è annegato con una pietra al collo. L'abbiamo lavato io e l'olandese, quanta pena mi ha fatto. Mentre facevo la guardia pensavo che anch'io avevo avuto quella idea e ho ringraziato Iddio che mi ha dato la forza di ricacciarla. Su questo episodio Aldo Serra ricorda un passaggio del diario del padre di Tony, Luigi Cocco. Certe volte il diario di Luigi coincide con le lettere che riceveva, e quando ho ricevuto la notizia che Tony e sto Martin avevano pulito il cadavere di uno che si era suicidato, un tedesco fra l'altro, e tuo padre dice, aveva 20 anni questo qua, un ragazzo di 20 anni che si suicida perché non può reggere una situazione, ma cosa gli hanno fatto, no? Ma era sconvolto. Sul petto aveva un tatuaggio, un piccolo cuore con scritto mamma. È già il secondo che si toglie la vita, l'altro si è impiccato in prigione. Ne ho viste tante qui che certo mi serviranno molto per la vita. Appena a Sidibe la Bes ti manderò il mio indirizzo. Saluta tutti, un abbraccio e un presto arrivederci. Tony. Truly. io vi auguro un ottimo fine settimana, vi auguro di godervela il più possibile, vi auguro anche di scriverci qualche storia. Linee d'ombra @radio24.it. Vi ricordo anche che sabato alle 21.30 c'è lo speciale di Linee d'ombra che riassume i 5 episodi della storia seriale che vi abbiamo raccontato. Io ringrazio Mauro Pescio che raccoglie la storia, Anita Panizza che rende possibile questo programma, Luca Micheli alle musiche, Paolino Corleoni alla parte tecnica e registica. Io ora do la linea al GR e noi ci sentiamo lunedì per raccontare storie, sempre alle 15, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.